non grassano, i ricordi mi trapassano, fracassano. L'anima usa in Dio tempo, ma sentimento è sempre stesso. Resta un presso, un canto esterno. Mi creavo un schermo, mi difendo tutto mondo. È più importante me feggio, mi rendo conto e con ma sogno. Ti chiamaro dai primi giorni della tua vita, e quindi pensi che tutto il resto sia in salita. Immortalando attimi dentro battiti, sazio dei momenti trascorsi dentro i miei abiti. Ho creduto per anni che vivessimo nei sogni, e oppormi non bastava strapparli da quell'infanzia ludica e dai sogni di MC. Pallonate forti per renderli immensi. Stagione dopo stagione cambi di umore, nuvole che non oscureranno il mio sole. Non ho tempo per distrarmi, è normale. Sto evitando di pensare altro dal mio solito fare. Nessun progetto per il futuro, oggi non ci penso, sono ancora bambino. Ma domattina mi alzerò sul presto. Non ho mai visto l'alba da così vicino ed è stupendo. Se vuoi così non piangerò, tu vuoi così alla legge del destino mi arrenderò. E se è così non scorderò tutto il passato, ciò che ho sbagliato in un futuro lo riscriverò. Se vuoi così non piangerò, tu vuoi così alla legge del destino mi arrenderò. E se è così non scorderò tutto il passato, ciò che ho sbagliato in un futuro lo riscriverò da capo. Cerco spiegazioni a ciò che sta accadendo, un cambiamento radicale da sfruttare al momento. Passa il tempo e forse non lo sento, ma resto piccolo e indifeso mentre sto crescendo. Stando in mezzo a due secoli ben distinti, medio verica finti, menze finti. E sta cosa che mi dici distinguere i lati, su pall'asfalto disegnavan quattro quarti. Vari episodi che mi fanno ricordare il mare. Vivo nel sud dove ogni pensiero nasce per morire. Lacrime versate per trovare una ragione, un senso per riprovare a ridere senza finzione. Se vuoi così non piangerò, tu vuoi così alla legge del destino mi arrenderò. E se è così non scorderò tutto il passato, ciò che ho sbagliato in un futuro lo riscriverò. Se vuoi così non piangerò, tu vuoi così alla legge del destino mi arrenderò. E se è così non scorderò tutto il passato, ciò che ho sbagliato in un futuro lo riscriverò. Da capo. Giusti che suona Taranta vanto carcero sul mina, fiorisce un ipitara a maggio. Questa è la Calabria del mio viaggio, terra amara ma cara a me che forse sono poco saggio. Ma bruci pedi su fa spiaggia, ca parola non si scangia quando è data carraggia. Strano retaggio di un popolo, spesso non lo tollero, ne mangio, ne mastico un arrangio. Sento che è tempo di cambiare villaggio, ma la vita è strana, chissà cosa da darmi. Una volta mi arrangiavo senza armi, fissu contrastati carmi. Per andare a mare attraversavo gli oleandri, tra personalità l'antitesi di Gandhi. O tiri dritto o sbandi, personaggi blandi. Ragna a 13 anni in tasti bandi, se cresci in costa ionica non cambi.